Semaforo, scatenate l'inferno. Prima dentro, gas a martello e andiamo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Allora, in attesa di vederci di persona questa sera dalle 6:30, 18:30 a International Radio City, Milano, Piazza Gaiolenti, Padiglione Unicredit, ci vediamo lì per una puntata speciale live di Tutti Convocati, solo per voi. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Come va? Molto bene, tu? Domani. Milano operativo tonico stasera. Stasera operativo tonico, saremo lì e intratterremo tutto l'enorme pubblico che immagino sarà presente. Dunque, però, cominciamo con Tutti Convocati di adesso, e per fortuna domani si torna a giocare, perché dopo questa settimana non ce la facciamo più, possiamo dire la verità. Lo chiedo anche agli ascoltatori, ce la fate ancora? 800 24 00 24, numero verde, dopo Higuain, giudice sportivo, gli ultra in Senato, eccetera eccetera eccetera. Domani torniamo in campo, comincia l'Inter con il a Frosinone alle 15, 4 partite per un weekend spalmatissimo, poi Chievo Carpi, Sassuolo, Genoa, tanto per tirare l'ora di Milan Juventus 20:45. Meazza non giocherà Dybala, l'ha appena detto Allegri, poi ve lo faremo anche sentire magari. Intanto vi faccio sentire Mancini sulla partita di Frosinone. Ci sono dei momenti della stagione in cui le cose vanno male, perché noi credo che abbiamo perso troppi punti in casa, cose che all'inizio non abbiamo fatto. Abbiamo perso perché oggi potevamo avere sicuramente 10 punti in più, e sono le partite in casa dove sinceramente non meritavamo né di perdere, forse neanche di pareggiare, però purtroppo le cose vanno così, e quando c'è da ricostruire ci vuole un po' più di tempo, a volte magari si pensa di poterlo fare in meno tempo e invece ce ne vuole di più. Così Mancini su questa gara, ma sentiamo anche Mancini sul suo futuro. Non posso tutte le conferenze stampa dire la solita cosa, no? Vedo che tutti si parlano, qui si vede che ne sanno più di me, quindi va bene che dicano quello che vogliono, non è un problema questo. Ripeto, un allenatore è legato a molti risultati, quindi credo che questo mese e mezzo sia un mese e mezzo importante, perché credo sia importante finire bene e finire con delle vittorie. Quindi il mio problema non si pone, perché io ho contratto ancora un anno, quindi non è un grande problema. Mancini è piuttosto mogio, Piana, ha detto merito un voto basso, non ho fatto bene questa stagione, eccetera eccetera. Beh, molto onesto, devo dire, molto onesto, sì. È chiaro che la stagione dell'Inter, a differenza per esempio di quella del Milan, che è stata più regolare nella mediocrità, ma comunque sarà sicuramente più regolare, la stagione dell'Inter rischia di essere forse altrettanto mediocre, perché il Milan comunque ha lo sbocco della finale di Coppa Italia, l'Inter ha qualche punto in più, ma che non dovrebbe cambiare poi il risultato finale, cioè l'approdo in Europa League. E però ha vissuto una grande esaltazione giustificata, legittima all'inizio, quindi è chiaro che in questo momento il tono di Mancini ci racconta quello che è successo negli ultimi due mesi, no? Si capisce che è stato disastroso. Sì. Devo dire che complessivamente ha ragione, secondo me, sul fatto che premesso che la fortuna e la sfortuna sono categorie dello spirito, che alla lunga poi gli allenatori, i giocatori fanno meglio a non guardare, che c'è sempre, alla fine ha sempre ragione in campo. Mm-hmm. Detto questo, sicuramente in questo 2016 l'Inter non è stata fortunatissima in alcuni episodi, così come però secondo me deve essere riconosciuto che nella prima parte della stagione, senza brillare molto, è riuscito a ottenere dei risultati, certo, di alto profilo. E ha raccolto un po' di illusioni, e ha seminato e raccolto un po' di illusioni. Esatto, io ti dico la verità, mai come in questo, cioè, nel caso dell'Inter mi sembra proprio che abbia la classifica che merita, che vale, né più né di più né di meno, che nel rapporto fortuna-sfortuna siamo lì. È solo che nella prima parte della stagione le cose andavano molto bene, al di sopra secondo me dei meriti e anche delle qualità della squadra, e adesso sicuramente in qualche circostanza è successo il contrario, sì. Cioè, è evidente che c'è stata qualche partita molto sfortunata. Ma secondo me questa classifica non racconta grandi bugie, poi a Napoli non sono d'accordo, ma questa classifica non racconta grandi bugie. No, il grande tema secondo me è la Roma, che forse cambia, forse manca la controprova, forse cambiando un mesetto prima poteva essere ancora in corsa, ma per il resto secondo me siamo lì. Il Napoli sta facendo il massimo di quello che può fare, la Juve si è concessa, ma ci poteva anche stare in quella rivoluzione estiva, due mesi di time out all'inizio della stagione, nei quali ha perso probabilmente più punti di quelli che era lecito pensare che potesse perdere, e poi è tornata la Juve, sì. Quindi in maniera anche esagerata, perché 63 sono una roba fuori dal mondo, fuori dal mondo. E stavo leggendo messaggi, c'è Sergio che ha tutte le certezze del mondo: il Milan sarà sorpassato dal Sassuolo, se non vince la Coppa Italia addio Europa, e aggiunge siate coerenti su cosa, visto che Sergio è sicuro che sarà superato dal Sassuolo se non vince la Coppa Italia. Tra l'altro Mihajlovic ha parlato poco fa, sentiamo una battuta. Non mi aspettavo, però, come ho detto, mancano ancora 7 partite, manca Coppa Italia, e noi abbiamo il dovere, come ho detto prima, il dovere di arrivare almeno sesti e di cercare di provare a vincere la Coppa Italia. E sicuramente sono partite importantissime che dobbiamo dar tutto, e poi dipende molto da noi, da domani, sapendo anche che partita sarà, però io sono convinto che noi abbiamo tutte le qualità per poterli battere. Mihajlovic ha anche aggiunto: beh, se non vinco la Coppa Italia, se non vinciamo la Coppa Italia, è giusto che il Milan cambia allenatore. Siamo nel giorno dell'outing degli allenatori milanesi. Io l'ho detto tante volte quest'anno, il Milan ha fatto una campagna acquisti importante anche di prospettiva, insomma. Io poi capisco, in questo momento parlare bene dei dirigenti del Milan è impopolare, e sicuramente degli errori ci sono e della confusione c'è, però almeno secondo me comunque andrà a finire questa stagione, il Milan potrà ripartire da un'intelaiatura di giocatori italiani, in molti casi 5-6 italiani di livello, che in prospettiva possono dare molto. Da qui a diventare la macchina perfetta, il meccanismo perfetto che è stato per esempio la Juve negli ultimi anni, ce ne manca molto, o perché sì, secondo me a livello anche di qualità manca molto. Appunto, siamo indietro, grande gap, o perché ci vuole tempo, quindi e soldi, insomma, e Bonaventura soldi. Secondo me è un buon giocatore, Bertolacci può solo crescere, sì, Romagnoli può solo crescere, Donnarumma, trovato Donnarumma, 5-6 cose ci sono, mi verrebbe da dire che serve la sostanza. Adesso serve il talento, servono i campioni, però il futuro è nebuloso, perché come sappiamo benissimo non è chiaro che cosa la proprietà ha intenzione di fare. Le ultime parole di Berlusconi sono state: se non troviamo soci andremo con la linea giovane, e questo lascia intuire che non ci sarà un mercato faraonico. Allora ci fermiamo un attimo per il traffico, vi invito di nuovo 800 24 00 24, poi arriverà anche Mister Condò e ripercorreremo anche con il sonoro, insomma Audio Forum, ripercorreremo la settimana che abbiamo appena vissuto. Tutti convocati. Tutti convocati. Ora, questo non è Anfield Road, ma è lo stadio di Dortmund ieri sera. Saluto Mister Paolo Condò, buongiorno. Caro Carlo, anche tu cuoque. Senti, partirei da lì con te, compardo, visto che faremo questo audio forum sull'onda dei sonori della settimana, facciamo quattro chiacchiere. Dai. We never walk alone Dortmund ieri sera per salutare il ritorno di Klopp. Partita finita 1-1, gara di andata, Klopp contento, però grande ambiente, che bello. Sì, grande ambiente, risposta popolare molto giusta e molto bella, il ritorno di quello che in nessun caso potrebbe essere definito un traditore, ma un allenatore che ha rifatto grandissimo il Borussia Dortmund, e naturalmente il fatto che mi pare la 7ª stagione non sia stata positiva come le 6 precedenti non ha cambiato una virgola nell'affetto della gente, ma poi è stato un trionfo della sportività contro il politicamente corretto, perché per esempio Klopp, quando ha fatto gol Origi, ha esultato, tutto contento, e nessuno si è sognato di dirgli mezza parola. Ha fatto benissimo. Esatto, c'è stata molta sincerità. Sì. C'è stata molta sincerità e molta spontaneità, e c'è stata, insomma, una bellissima serata di calcio, perché certo, è stata anche una partita molto spettacolare fra due squadre che così si andava da una parte all'altra del campo senza molta tattica. Finale, è stata proprio una finale anticipatissima dell'Europa League. Ma sì, ma sai, lo avevamo detto anche di Borussia Dortmund Tottenham del turno precedente. La verità è che l'Europa League quest'anno, per una serie di concause, aveva parecchie belle squadre. È un peccato, anzi, che le italiane siano uscite così presto. Penso soprattutto al Napoli, che secondo me poteva competere per la vittoria finale. Purtroppo c'era due serate storte con il Villarreal, squadra non banale peraltro, e sono usciti, e insomma il Napoli sicuramente meritava di essere fra gli ultimi quattro. Sì, certo, l'ha un po' regalata via. Settimana non banale anche in Champions League. Torniamo a Felipe Luis, al Barcellona, quella partita molto dura. Pero sí que el Barcelona sí que es protegido. El Barcelona, cuando juegas contra ellos, se nota mucho que tiene mucha fuerza, que todas las acciones se nos penaliza al máximo, con máximo rigor. Y bueno, es duro, duele mucho, y se nota el temblor de que puedas eliminar al Barcelona, obviamente, ¿no? Pero hace mucho daño a la UEFA eso. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas, estamos vivos. Barcelona favorito dall'UEFA, Pierluigi Pardo in tema con la nostra settimana, Sì, sì, sì, beh, hanno voluto non farci sentire, hanno fatto You'll Never Walk Alone, e quindi la nostra polemica l'hanno, diciamo, fatta anche in Spagna, così per non farci sentire soli. Esatto. Beh, insomma, sì, in quella partita sono successe tante cose, sono stati tanti errori, mi pare, da una parte e dall'altra. Non faccio fatica a pensare a un vento anche lì, proprio un po' una cosa simile a quella del nostro campionato, anche se però una Champions che non ci immaginavamo in questa settimana. Ma sai, ogni tanto vengono fuori delle Champions strane, a parte che poi bisognerà capire, perché poi è chiaro che se passano già Barcellona, Bayern e una tra City e Paris Saint Germain, già sarebbero tre big su quattro. Certo, l'eliminazione del Real Madrid, che a questo punto è probabile, anche se poi non è scontata, sarebbe clamorosa. Io credo che il dato di questa andata dei quarti sia che la Juve deve vivere un po' divorata dal rimpianto. È veramente un peccato, perché penso veramente che potesse andare molto molto avanti. Sì, io non ho non ho visto una squadra che se la porta da casa con la Juve. Sì, cioè, poi chi fa 2+2 scrive Bayern, ma allora il Wolfsburg è più forte della Juventus, non diciamo sciocchezze. Siamo d'accordo con quanto ha detto Pardo, no Paolo? Sì, sono d'accordo sempre. Sul rimpianto della Juventus. A maggior ragione in questa fattispecie, ma ti dirò di più, visto che avevo detto prima che il Napoli era certamente la prima quattro, lo era la Juventus in Champions League, che è chiaro che deve rimpiangere quell'ultimo minuto a Monaco, ma deve rimpiangere soprattutto la sconfitta di Siviglia, che l'ha messa nella cesta delle scarse, chiamiamole così, pur essendo tutt'altro che scarsa, ma meritando di stare nell'altra cesta. Quindi è divorata dal rimpianto a maggior ragione proprio per quello. Sì, se il Manchester City va avanti, e dopo il 2-2 di Parigi è la favorita naturalmente, arriva in semifinale una squadra che l'ha beccata due volte su due della Juve, in casa e in trasferta. Quindi, insomma, quando becchi due volte su due non c'è dubbio chi sia più forte delle due formazioni. E in generale ti dico che sono felice di non aver partecipato ai consueti funerali del calcio all'italiana, del calcio italiano dopo questa eliminazione massiccia dalle coppe, perché se è vero che non stiamo attraversando il momento più brillante nella storia del nostro movimento, noi comunque quest'anno nelle coppe avevamo due squadre, cioè la Juventus e il Napoli, che nelle rispettive coppe per me valevano la finale, poi ovviamente non c'è la controprova, io continuo a pensare che le coppe siano episodiche, cioè siamo in crisi, va bene, l'anno scorso abbiamo avuto una finalista, due semifinaliste. No, io continuo a pensare che ci sia un problema di Europa League, del modo nel quale le italiane però l'anno scorso non c'è stato, come atteggiamento. No, ma perché l'anno scorso ci siamo divertiti tantissimo, due squadre nelle semifinali e insomma almeno la Fiorentina è stata battuta dal Siviglia, ma io mi ricordo quella partita, anche in quel primo tempo tra le gol se l'ha avute tante, anche sullo 0-0. Detto questo, la Fiorentina uscì lentamente, il Napoli è uscito per dei episodi. Aspetta che non ti sento più, Pierluigi. C'è un veramente tra secolo, perché no, c'è un io sento questo fruscio. Che cos'è? Confermi, Paolo? Non si sente. Sì. Proviamo a riagganciarlo, Pardo. Intanto vi faccio sentire qualcosa di eclatante e meraviglioso, il signor Boccia, dopo che è stato in Senato. Lì abbiamo il dovere di farvi capire a voi che se volete la coreografia, la tanto amata coreografia, non potete dividere una curva. Ecco perché il popolo laziale e romanista hanno il nostro rispetto e di tutta Italia in questo. Perché la cosa che amano di più se la vedono assolutamente disfatta, una cosa che l'hai vissuta da bambino. Ma oggi il bambino, non è obbligatorio che tutti i bambini vanno allo stadio, c'è anche lo zoo, c'è il circo, c'è il teatro, non è per forza obbligatorio che lo stadio è di bambini. Il bambino che nasce con la passione del calcio sicuramente crescerà lì, ma non è obbligatorio che oggi il bambino sostituisca quello che invece vive con la passione, con la maglia che il padre e la madre gli hanno insegnato. I bambini vanno allo zoo magari dentro le gabbie, ma sono credibili come interlocutori, Paolo? Ma si può possono le istituzioni parlare con questi qui? Ma no, ma naturalmente poi sono sempre gli stessi, 100, poi non so chi altri c'era. Ma il problema fondamentale è che tutte queste si alza una cortina fumogena su questo fatto, è che non stiamo parlando della passione, come stava dicendo il Boccia adesso, perché sulla passione, sulla genuinità della passione siamo tutti d'accordo, che è una cosa bellissima, e la genuinità della passione l'abbiamo vista nelle curve del Liverpool, nelle curve del Borussia Dortmund, ma c'è anche nelle altre curve, quelle della Roma, della Lazio e dell'Atalanta, di tutte quante. Stiamo parlando di quel gruppo di persone nelle varie curve che organizza forte, che impedendo praticamente alla polizia di entrare, ecco, organizza il loro lavoro, il traffico di droga, certo, organizza prostituzione, certo, organizza queste cose. Sono quelle persone. Quello è il loro ufficio. È inutile che diciamo questo, che si va a colpire la passione, si va a colpire i traffici illeciti. Questi sono. Questo non c'è dubbio. No, io solo una cosa dico, visto che ieri abbiamo ospitato 100, il quale ci ha parlato di una quantità di propositi molto positivi. Io credo, appunto, ripeto, egherianamente, cioè non è che la realtà la puoi cambiare così. Quello che c'è, tutto ciò che esiste, ha una ragione di esistere. Quindi se questa è la situazione e se questo tipo di coinvolgimento può essere utile per avere un clima diverso e per, appunto, sedendosi attorno a un tavolo, migliorare il clima, io non sono pregiudizialmente contrario, al di là del fatto che, ovviamente, dal punto di vista simbolico, come ha sottolineato lo stesso Malagò, non è il massimo, no, quel tipo di situazione, ma voglio pensare positivo. Quindi aspettiamo la prova dei fatti. Ieri Centro ci ha raccontato un sacco di belle cose sul fatto che c'è una volontà di migliorare il clima, di cercare di risolvere insieme i problemi. Da questo punto di vista, essendo i gruppi ultra comunque una, ovviamente soltanto una, delle componenti del gioco, ma una componente comunque che esiste e che in qualche caso si comporta bene, in qualche caso crea problemi, tutto quello che può essere utile perché ci sia una disponibilità e un'apertura e un miglioramento del clima, secondo me non è sbagliato, non va buttato via. Però senza scendere a patti, Pierluigi, senza scendere a patti, io non credo che lo Stato dica che si può spacciare droghe in curva, nemmeno deve dire quello è vostro territorio, oppure che ci possano essere estorsioni o ricatti o situazioni di violenza, questo è ovvio, cioè principio, però ieri Cento si diceva delle cose, vediamo che succede. In assoluto io credo che quell'immagine simbolicamente sia un'immagine molto pesante, però penso anche che se poi alla fine questa cosa qui porterà ad un clima di maggiore rispetto nei confronti delle forze dell'ordine, a un clima di maggiore attenzione fra una tipologia e l'altra, cioè, per esempio questa cosa qui può diventare uno strumento affinché gruppi ultra storicamente rivali, non credo per esempio che Brescia e Atalanta abbiano grandi simpatie, se, non sono un esperto, però insomma erano presenti pure ieri, se questa cosa porta a un patto di civiltà, perché no? Però vediamo. Allora, sì, ma qualsiasi manifestazione di civiltà non può prescindere dal controllo del territorio. Certo, non ci possono essere delle zone franche nelle quali la polizia non può entrare. Ovvio, ma lo dico a protezione proprio di quelli di cui parlava il Boccia, dei ragazzi, dei ragazzini che i genitori gli hanno insegnato l'amore per i loro colori e vogliono andare in pace a tifare per la loro squadra in curva che i bambini non è obbligatorio che vadano allo stadio, vadano allo zoo, al cinema, ci sono tanti altri passatempi, se non capito. Vabbè, i bambini crescono, voglio essere protetto anch'io che ho 57 anni. Tutti noi. Ragazzi, lo zoo è di una noia assoluta, però questo che dice Paolo è chiaro. La sostanza dell'incontro di ieri, del quale abbiamo parlato anche ieri, è molto semplice. Se c'è la buona fede, cioè se diventa un sedersi attorno a un tavolo per migliorare realmente le cose, io non vengo a fare quello che dice no, io con te non ci parlo, c'è un problema di legittimazione. Se questa cosa può portare a un miglioramento, è una presa però di coscienza da parte anche dei gruppi ultra, che è esattamente come nel discorso che esisteva nel passato del servizio d'ordine delle manifestazioni, devono capire che hanno una responsabilità, perché se sono un luogo di aggregazione diventano anche responsabili di questa aggregazione. Quindi se questa aggregazione è un'aggregazione che fa solidarietà, impegno sociale, allegria e folklore, siamo tutti pronti a battere le mani. Se questa aggregazione fa qualcos'altro, lo Stato deve intervenire. Quindi questo mi sembra il tema. Se c'è buona fede o mala fede, questo lo scopriremo solo vivendo. Mi sembra questa la cosa. In assoluto, certo, l'immagine, il luogo istituzionale fa effetto, questo non c'è dubbio. Sì. Paolo, ti ringrazio, dammi solo una battuta sull'ultimo caso, cioè l'altro caso, grande caso della settimana, quello di Higuain, perché a Napoli proprio non ce la fanno. Oggi cosa c'era? Oggi cosa hanno fatto? A Piazza del Plebiscito, flash mobbing, e faranno la pagnolata e dicono, e abbiamo sentito anche degli esponenti delle istituzioni di Rebar, però Juventus ha robacchiato. Io sulla cosa voglio dire, soltanto l'arbitro sa che cosa Higuain gli ha detto, perché stiamo girando attorno a questo fatto. Allora, Higuain ha fatto un fallo per il quale è stato giustamente espulso. È vero che non è, le mani sul petto le ha messe non in senso violento, sì, non in senso violento, quello ce ne siamo accorti tutti quanti. Gli diceva delle cose e non gliele diceva con grande tranquillità. Io spero che all'interno delle regole, però, cioè non perché c'è una pressione da parte della città, spero che all'interno delle regole sia possibile togliere una giornata e farli giocare a Roma-Napoli, perché mi piacciono le grandi partite con tutti i giocatori che possono giocare. Ma voglio dire, sia chiaro, io spero che le cose che lui ha detto adesso in seconda istanza giustifichino. Ma le cose che lui ha detto, non la pressione della città, capito? Che pure c'è. Questo insomma, poi nell'intero movimento, tutte le città da questo punto. Spero che possa avere un giusto e meritato sconto di pena per giocare la partita a questo punto decisivo del campionato del Napoli. Grazie Paolo, alla prossima. Ciao. Ti abbraccio. Grazie Paolo Condò. Ci fermiamo, siamo in ritardissimo con la borsa, chiedo scusa. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10:30, con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia. Naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Si ricomincia. Convocati. Pierluigi Pardo, che mestiere vuoi fare da grande? Quello che faccio. Matteo Cruccu del Corriere della Sera è un collega che ha scritto un libro estremamente intrigante, Ex, storie di uomini dopo il calcio. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Senti, raccontami la più divertente, poi ti faccio una sorpresa, raccontami la più divertente. Ma secondo me sicuramente la più curiosa è quella di Gianni Comandini, eroe per un derby, quello famoso del 6-0. Sì. A un certo punto a 29 anni molla tutto perché è nauseato dal mondo del pallone, prende zaino e sandali e inizia a girare il mondo come un fricchettone qualsiasi. Secondo me non c'è una storia simile, analoga nel calcio recente, negli ultimi 30 anni. C'è il calciatore giramondo che a un certo punto decide di fare, insomma, l'ippi, così è un... L'apostrofa Caipi, certo. Anche la Catà ha fatto qualcosa di simile, no? A un certo punto. Sì, lui però andava, Vero, vero, ah. Però lui in business class, diciamo così, era già più raffinato. Okay. Nel, però sì, è vero che De Tosci è un altro che era sicuramente atipico. Comandini Interrail. Sì, bravo, senti, bravo. Esatto. Facciamo, so che lo presenterai il libro alle 6:30 con Tommaso Labate, credo anche con Luca Di Bartolomei, oggi certo. È il compleanno di Agostino Di Bartolomei. Infatti era Torma Arancia stamattina, guarda, ero proprio lì, perché c'era un torneo commemorativo. Perché secondo me, insomma, questo libro parla di storie molto diverse tra loro, no? Però quella di Bartolomei, senza fare psicologia da quattro mondi, però insomma è la dimostrazione di come non sia facile, lasciare in calcio, no? Nel senso che ce l'abbiamo tutti i giorni le dimostrazioni, Pierluigi. Stiamo parlando di Totti, abbiamo parlato di Maldini, abbiamo parlato senza di Del Piero, no? Devo dire che le storie mie, nella maggior parte dei casi, sono storie di scelte, però, cioè di scelte in cui il calcio a un certo punto è una fase della vita e poi subentrano, nel caso di Comandino e di Bagnoli, subentra la nausea e sceglie di fare altro. Poi ci sono storie invece condizionate da discorsi personali, penso a Torricelli che perde la moglie e si ritira in montagna, in Val d'Aosta, per seguire i figli piuttosto che inseguire una carriera allenatore, o Fuser che si mette a giocare con le macchine telecomandate a giocare al pallone perché ha avuto anche lui un lutto importante. Insomma, quindi sono storie dove sostanzialmente si sceglie di dire basta. Forse Malesani, ecco, l'unico che non si sente ex dei miei protagonisti, perché è vero che coltiva le vigne in questo ridotto vicino a Verona, ma è anche vero che vorrebbe tornare appena possibile. Infatti, quando gli ho detto che il titolo del libro sarebbe chiamato Ex, mi ha ringraziato, ma ha detto: io non mi sento affatto ex perché non voglio celebrare il mio funerale. Ce l'abbiamo Malesani, abbiamo una voce di Malesani. 12 anni, 24 allenatori. A caso, sarà mica sempre l'allenatore qua che deve pagare. Sempre l'allenatore. I tifosi diano una mano alla squadra oggi invece di contestarla. Abbiano i coglioni di dare una mano alla squadra. Io sono là 24 ore al giorno. Io. 24 ore al giorno sono là io. Tutti i giorni, cazzo. Questo in uno dei suoi più celebri show che tutti certo. Ricordiamo. E c'è anche quello del Mollo poi a Genova. Mollo. Senti, ma è un personaggio un po', dove lo si fa. C'è un po' di pregiudizio. Io faccio outing. Secondo me c'è un po' di pregiudizio sulla vita dei calciatori, no? Sulla qualità umana dei calciatori, cioè sì, lo stereotipo del calciatore viziano. Poi in realtà, come tutte le categorie, ci sono quelli più sensibili, quelli meno sensibili, quelli più brave persone, certo. Quelli più figli di... Però insomma... Guarda, Pierluigi, questo è un figlio di un lavoro lungo che ho fatto su Quelle della Sera, ne ho fatti 60 di video interviste, no? E poi ne ho scelte 10 che sono finite nel libro. Devo dire che con tutti o quasi tutti, 59 su 60, va... siamo riusciti proprio a arrivare allo stesso livello. Che è il centesimo? No, vabbè, lasciamo perdere. Però dico, no, ma in linea generale, ma anche col 60esimo, comunque non è che sia stato. Intendo dire, si basta in qualche modo uscire dal novero delle domande scontate a cui si danno risposte scontate. No? Quella è la cosa. Se tu riesci in qualche modo a fargli capire che sai di loro e sei interessato a loro al di là delle copertine. Al di là delle immagini prestampate, poi vedi che il calciatore si apre come più degli altri. Io devo dire che sono molto contento di essere proprio giù dal piedestallo, no? Come noi. Sì. Sì, ma probabilmente quando finisce l'avventura. Questo è il tema di comunicazione del mondo del calcio. Ci mettiamo dentro anche noi, voglio dire. Probabilmente sbagliamo anche noi. Probabilmente, sai, gioco delle parti. Poi, infatti, guarda caso, sono tutti ex giocatori miei, anche nelle interviste del Corriere. Noi proprio perché sono liberi. Noi sbagliamo nel senso che secondo me c'è un interesse quotidiano sulla notizia, sul titolo, sulla polemica e sì, diciamo sì. Anche noi destra, per carità, io ho fatto nelle ultime due puntate ho fatto 35 minuti di Moviola ognuna, quindi non è che voglio fare il santo, certo. perché si parla solo di Moviola in questi giorni, però se invece non si parla di Moviola, come succede tante volte, è bello parlare di calcio. Secondo me questa cosa qui dell'attenzione quotidiana, perché ogni giorno ci deve essere una polemica, ogni giorno ci deve essere una notizia, per carità, i giornalisti, noi facciamo il nostro lavoro, però questo poi porta gli addetti stampa a essere molto difensivi, sì, i calciatori a voler evitare, ma hanno una pressione, ma l'abbiamo detto tante volte, noi sottovalutiamo spesso la pressione che comunque dei ragazzi molto giovani hanno addosso, pressione mediatica. Il fatto che si misurino le parole e le virgole, quindi un po' insomma un po' delle banalità che sentiamo nel 90% dei casi è dovuto anche a questo, certo. Io non mi sento di fargliene una colpa. No, senza dubbio, c'è stata una stagione dove probabilmente questi filtri non erano così importanti, si poteva andare a pranzo, a cena, penso a Beppe Viola, no? Con Causi, mi ricordo una bellissima intervista in un bar in Spagna. Probabilmente poi si sono erette delle barriere, delle fortezze. Insomma, capita di andare a un mondiale in Brasile e Luigi c'era, dove eravamo solo noi i calciatori, eppure per 3 settimane non ci siamo parlati. Questo è un paradosso, paradosso. Un paradosso assoluto. Senti, paradosso assoluto, però secondo me ti dico, lì dovremmo fare il cessate il fuoco noi, nel senso che per me il punto vero è il quotidiano. Io poi quello sono un quotidiano, quindi non è che voglio contribuire quel tipo di, però è che il quotidiano può essere anche la televisione, cioè il fatto che ogni giorno c'è bisogno di qualcosa, ogni giorno c'è bisogno e tutto brucia, tutto brucia maledettamente in fretta. La faccia un po' così, siamo lì ad analizzare. Però guarda che forse è più una nostra idea, perché poi alla gente, se tu gli proponi le storie, al lettore, il lettore è avido di storie, sì, anche sì, di calcio. Certo. Quindi probabilmente siamo più noi che siamo inseriti in questo meccanismo, questa coazione a ripetere, ma se poi tu gli dai la storia, lo vedo su Corriere.it, quando offriamo storie di calcio, i click si impennano, perché la gente è curiosa di sapere proprio cosa c'è dietro. Invece, dietro la porta. Invece su Matteo, scusa se ti interrompo, sì, tra poco abbiamo invece su, no, volevo farti sentire il protagonista di questo messaggio apparso su Subito. Cerco lavoro in qualche società calcistica italiana e non. Disponibilità da Subito, massima serietà. La categoria non importa, basta che sia seria la dirigenza alle spalle. Se interessati lasciate nome, società e numero di telefono via mail e verrete ricontattati. Autore compare sul Subito Samuele Dallabona, che ricordiamo le maglie del Milan, del Napoli. Scuola Milan, sì, scuola sì, certo. Milan, anche al Chelsea forse. Molto simpatico, molto simpatico. Sì, vero, molto... E l'abbiamo cercato, stiamo provando a rintracciarlo, ma non Samuele risponde al telefono. Ma anche per spiegare che è uno scherzo dei suoi amici del calcetto. Ah, ecco. Aspetta che mando un messaggio, vediamo se riusciamo. No, l'abbiamo sentito anche prima, ce l'ha detto lui. Ah, no, ma è uno scherzo dei miei amici del calcetto, quindi volevamo farlo raccontare da lui, non ci riusciamo, lo racconto io. Matteo, grazie. Grazie a voi. In bocca al lupo a voi. E buon lavoro. Grazie di tutto. Ciao. A presto. Ciao. Traffico. Ciao. Traffico. Tutti convocati. Convocati. Beh, è ora di cominciare a parlare con gli ascoltatori, ce ne sono tanti che ci stanno cercando. 800 24 00 24, Edoardo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo dire così, quanto mi sente? Sì. Io sono indignato perché ieri lei ha ricevuto una telefonata da un pseudo tifoso che ritengo idiota, dove è stato attaccato, nel senso che è stato un signore a non dire come avrei reagito io. No, ma ognuno ha le sue idee, se le tiene, cioè, sì, non c'è modo di dirle tutto sommato, ma sa, poi ognuno parla a seconda dell'intelligenza. Però volevo complimentarmi con lei per la signorilità con cui ha gestito la cosa, nessun problema. La seconda cosa, io è da quando è successo il coso da Higuain, dal fatto con Higuain, che sento dire che giustifica Higuain col fatto che sia nervoso. Ma chi se ne frega, se ci sono delle regole non ci si può fare roba del genere, uno è nervoso e allora è autorizzato a fare quello Non è autorizzato, infatti è stato espuso e si è beccato 4 giornate di squalifica. No, Edoardo, lei ha ragione, però Pierluigi, tu eri allo stadio, insomma è chiaro che un campo da calcio a qualunque livello non è un ufficio, quindi vedi se un giocatore è sull'orlo di una crisi di nervi, e poi sappiamo perfettamente come al massimo livello professionistico possibile siano anche dei maestri nel picchiarti sui nervi, ci sono, no? Degli uffici dove ci si scanna allo stesso. Però no, è invece una metafora molto giusta. Il campo da calcio non è un ufficio, cioè è un luogo di adrenalina enorme, è un ruolo dove comunque la quantità di stimoli, di sollecitazioni è continua, certo, ma poi quante volte hai visto il giocatore, hai raccontato del giocatore che prova a farti saltare i nervi, che ti provoca il trash talk, sappiamo che queste cose succedono in campo. E comunque il nervosismo è una forma di debolezza, quindi nel momento nel quale anche riconoscendo una fermante generica a Higuain, però poi è la sensazione che mi ha dato il Napoli l'altro giorno, ne parlavo anche ieri, cioè che a differenza di altre volte dove era passato in vantaggio fosse molto più preoccupata, molto più nervosa, anche sull'1-1 quando la partita si stava mettendo su un binario molto gestibile, la squadra non era tranquilla, Sarri non era tranquillo, viene cacciato per una protesta con una roba che c'era a 60 metri da lui, insomma, comunque per un fallo abbastanza banale di Caillecon. Questo non è per giustificare pure qualcuno, no, per rispondere all'ascoltatore, però è chiaro che in quei momenti lì il tuo atteggiamento conta e gli avversari fanno di tutto per sfruttare quella che tu giustamente definisci una debolezza del momento. Daniele? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Mi chiamo da Palermo e sono un tifoso del Palermo. Però è arrivato Ballardini? È tornato Ballardini? Si è visto in città? No, non l'ho visto, non mi stupirei. Non so quanti altri allenatori ci siano liberi, però Ballardini è il più autorevole. Come sì. Zampalini diminuisce la disoccupazione in Sicilia. non solo in Sicilia. Volevo intervenire, se permettete, su Juve e Napoli. Anche se io a Palermo ho altri problemi riguardanti il calcio, che molto più gravi. Il problema, secondo me, sta a monte. Cioè, come appena detto da voi, il problema, secondo me, sta a Sarri, che non ha l'esperienza di reggere queste tensioni. Se voi ci avete fatto caso, il signor Sarri, a parte che è stato espulso 4 volte, credo sia un record, è tutto l'anno che si lamenta, a parte il calendario che è diventato una storia che neanche Mazzarri, guardate, si è lamentato della pioggia, del terreno, degli arbitri, si è lamentato di tutto quest'anno, già dalla prima giornata, quindi secondo me il problema sta lì. Grazie, vi seguo per radio. Grazie a lei, Daniele. È la prima volta che si trova a competere a questo livello, Pierluigi. Forse anche questo può essere un segno di debolezza. Secondo me sinceramente un piccolo limite, perché la stagione, perché bisogna poi razionalizzare le cose e riportarle al senso complessivo. Il senso complessivo è che il Napoli sta facendo una grande stagione e Sarri è una delle rivelazioni assolute, certo, di quest'anno. Adesso forse è da panchina d'oro. Ma assolutamente. Lo segno io, però ecco, credo che quello che sta facendo ci ha fatto vedere il calcio più bello che abbiamo visto in questa stagione. Che ci sia stato in certi momenti qualche limite da questo punto di vista, sono d'accordo e credo che, come diceva l'altro giorno per Paolo Marino domenica pomeriggio, dare alibi ai giocatori è sempre molto pericoloso, e quindi però è la prima volta che si trova lì, nella sua carriera. Questo senz'altro, però così con onestà intellettuale, così come è la prima volta che si trova lì, ci potrebbe essere il dubbio che non fosse in grado di gestire grandi talenti, grandi campioni, invece per esempio Higuaín è rifiorito. Assolutamente, però bisogna anche saper gestire la pressione, bisogna saper gestire i media, bisogna saper gestire quello di cui stavamo parlando prima, tutto il circo. Lì forse c'è qualche limite in più. Sì. Stefano, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Fermo. Sì. Volevo riprendere l'argomento Milan riguardo alla programmazione dei giovani e delle prospettive, diciamo, della società. Io credo che il Milan deve guardarsi dentro e capire veramente qual è il programma da valutare, perché prendere dei giovani, un programma di giovani è interessantissimo, ma se andiamo a prendere Romagnoli 25 milioni di euro, Bartolacci 18 milioni ed altri, ecco qua che si spende più con i giovani che magari con parametri zero, quindi bisognerebbe valutare. Diventa un paradosso, cioè posso anche essere d'accordo, però voglio dire, diventa un paradosso, perché Galliani per anni l'hanno preso tra virgolette in giro per i parametri zero, quest'anno che ha fatto la campagna acquisti veramente dispendiosa, ma su giocatori comunque di prospettiva. No, posso dirti, secondo me Romagnoli 25 milioni non è una bestemmia, non è una bestemmia calcistica. E dobbiamo anche ricordarci quello che dicevamo in estate, altrimenti non siamo intellettualmente onesti. In estate dicevamo che la Roma l'aveva venduto bene sicuramente, ma che il Milan aveva fatto un investimento importante per il futuro. Sicuramente non è andato come ci si aspettava, però che il giocatore abbia delle qualità è indiscutibile, e secondo me, insomma, in assoluto ribadisco, nella campagna acquisti di quest'anno ci sono delle tracce positive, è difficile vederle, mi rendo conto. Ma è difficile vedere le linee del futuro, perché più che guardare, l'ascoltatore diceva guardarsi dentro, il Milan ha bisogno di guardare il conto in banca e di capire come eventualmente investire nuovi denari. Massimo al volo, buongiorno. Buongiorno, io volevo solamente intervenire sulla discussione di poc'anzi rispetto a quello che è successo ieri a Roma con gli esponenti di qualche partito. Io per hobby mi occupo di calcio e dilettantistico, faccio il direttore sportivo con 400 ragazzi e mi faccio una domanda: cosa gli vado a raccontare io oggi di quello che è successo ieri? perché siamo tutti i giorni a invitare i genitori a star tranquilli, di lasciarli giocare tranquilli, e poi ieri una persona che ha 9 DASPO, che ha preso qualcosa come 4 anni, che ha la libertà vigilata, va a parlare in una sede che secondo me è tra le bisogna più opportune dove andare a parlare. Massimo, sono d'accordo con lei, bisogna raccontargli la verità, provando a spiegargli che questo non è un paese semplice, non è un paese semplice da capire. Sì, ma è il discorso di prima, cioè sono d'accordissimo sul fatto che sia imbarazzante, cioè il dato lì sui DASPO e il luogo istituzionale è realmente imbarazzante. Vediamo i fatti, vediamo, perché poi alla fine se questa cosa può portare a un... Vediamo il prossimo step. Pier, senti, devo chiudere, sì. Ci vediamo stasera, riprendiamo la discussione. Ci vediamo stasera, allora ripeto, International Radio City, questa sera a Milano dalle 18.30, siamo lì tutti convocati live. GR. Saluto anche Gianluigi Pardo. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Tutti convocati. Dunque, eravamo in debito di una voce di Allegri che oggi ha parlato alla vigilia di Milan Juventus. Ve la faccio sentire subito. Dybala non c'è. Però non è detto che giochi Mandzukic e Morata. Dybala sta molto meglio, mercoledì dovrebbe rientrare con la squadra e quindi è pronto per il rush finale. In questo momento stanno tutti bene, andarmi a prendere dei rischi, soprattutto su un giocatore che al primo infortunio della carriera, tra l'altro non si conosce neanche lui bene, e quindi magari le sue sensazioni non mi lasciavano molto sereno e tranquillo. La sensazione è quella di un Allegri che mescola le carte. No, Dybala non ci sarà sul serio, però non è detto che giochino Mandzukic, Morata. Vedremo chi giocherà nell'attacco della Juventus, che è la chiara favorita della partita di domani. Ascoltatore di nuovo, Paolo e Luciano. Luciano, buongiorno. Oh, grazie alla convocazione. Grazie a lei. Ma tifoso juventino da Torino, non sportivo, tifoso. Niente, sì. Io volevo solo ricordare ai tifosi napoletani che se oggi sono secondi è per un semplice motivo: hanno perso uno scontro diretto a Torino, avevano 2 risultati su 3 per essere davanti a noi, sono andato a Torino e il signor Sarri ha cercato solo di pareggiare la partita anche quando eravamo senza difesa, senza Bonucci, e adesso sono dove sono. Sì, quella è stata la partita chiave, questa è evidente. Quella è stata la partita chiave, e come un po' sono le partite in certe partite importanti durante il campionato, o come sono in Champions. È stato il passaggio di chiave, poi dopo sono tutte solo più parole. Grazie. Sì, grazie a lei, Luciano. Beh, il Napoli non ha giocato a Torino la sua migliore partita. È anche vero che la Juventus ha trovato la vittoria, ha pescato, visto che eravamo in tema di mazzi di carte, ha pescato il jolly in quella serata con Zaza, perché era chiaramente una partita da pari e patta. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Io è un po' di tempo che ho questo concetto in testa, volevo chiedere la vostra opinione. Cioè, non sarebbe il caso che il giudice sportivo iniziasse a squalificare i calciatori quando ci sono degli episodi, diciamo, clamorosi di simulazione? Questo è previsto con ovvi regolamenti, insomma, con ovvie fattispecie. Quindi il giudice sportivo agisce sulla base dei regolamenti, carte in mano, sulla base di quello che ha scritto l'arbitro. Dipende se l'arbitro ha visto o non ha visto in una determinata situazione. Poi per il resto, insomma, di simulazione abbiamo parlato a lungo ieri, no? Viviamo in un paese di furbi, non siamo soli, siamo in buona compagnia. Ieri citavo Neymar, che secondo me è il più grande simulatore del calcio mondiale, almeno ad alto livello. È un fuoriclasse straordinario, ma è il più grande simulatore del calcio mondiale. Dani Alves, un altro che non si fa mancare nulla. Marcelo, abbiamo visto la sceneggiata della partita di Champions League. Insomma, quanto ai provvedimenti, alle sanzioni e squalifiche, va bene tutto, però bisogna agire sempre sulla base dei regolamenti che ci sono. Se vogliamo cambiare i regolamenti, li cambiamo, altrimenti si fa così. Buongiorno Roberto Ungaro. Ciao Carlo, come stai? Bene, molto bene. Si torna in pista subitissimo. Le due ruote rimangono dall'altra parte del mondo. Si corre ad Austin, il Gran Premio delle Americhe, e siamo tutti in attesa di vedere e di capire cosa faranno i due Ducati. Esattamente. Le prime prove ci saranno alle 16.55, quindi bisogna parlare, la notizia principale è il mercato. Sì, ormai Lorenzo lo si dà i Ducati, è quasi certo, addirittura si dice che l'annuncio potrebbe essere fatto qui in America. Ti dico che il suo manager è rimasto a casa, a Barcellona, e questo può far capire che sta preparando tutte le carte, sta vagliando le cose, perché è molto strano che la sua ombra non l'abbia seguito in America, quindi secondo me si stringono i tempi. E poi voci di corridoio, che è una cosa curiosa, ti posso dire che la goccia che ha fatto traboccare il vaso a Lorenzo è che non gli è andato proprio giù l'ultima fornitura che Yamaha ha fatto per il ranch di Valentino. Sai che hanno stipulato un accordo più di 30 motro legato a Yamaha per la sua attività del ranch. Insomma, questa cosa chi è dentro ha detto che è stata vissuta veramente male da Orghe, e quindi insomma pare che abbia deciso. Ha parlato, aspetta, facciamo sentire Valentino Rossi cosa ha detto a proposito di Lorenzo in Ducati. Sì, io non so niente, però sembra nell'ambiente, come hai detto te, che l'anno prossimo Lorenzo cambierà moto e correrà in Ducati, e comunque sì, confermo, comunque se lo farà sarà una scelta coraggiosa. Però devo dire che penso anche che sarà comunque competitivo, perché comunque Lorenzo è un pilota che va forte, che guida bene, e la Ducati è una moto competitiva adesso. Come gli dispiace, Roberto? No, assolutamente no. Come è dispiaciuto? No, anzi, comunque l'abbiamo detto, la Ducati di oggi è molto diversa da quella che ha guidato lui, ma il dottore si è scottato con quella moto, quindi qualcosa ti rimane. Intanto, Carlo, ti aggiorno, danno per certo Vignales sostituto di Lorenzo Yamaha, quindi il compagno di Valentino sarà proprio Vignales, l'ago della bilancia del mercato attuale. Iannone più vicino a Suzuki, parlano di un Rins in Honda che potrebbe sostituire Pedrosa. Non si sa ancora dove andrà, e bisogna capire chi sarà al fianco di Lorenzo l'anno prossimo. Sì. Tanti i tifosi dicono Stoner, ma Stoner una stagione intera no, anche se sarebbe divertente. Lorenzo e Stoner in squadra, ragazzi, le rosse potrebbero veramente tutti fare paura. Tanta roba. Esatto. Tutti. E poi l'ultima cosa interessante di attualità, Carlo, è le ali sono sotto accusa. Sapete che pronti via Iannone, con la sua ala, quella aerodinamica che è molto sporgente, è andato addosso a Marquez e gli ha amputato la telecamera posteriore. E allora si dice sono pericolose, non sono pericolose. In Moto2 e Moto3 l'hanno già tolte, si dice che le toglieranno anche in MotoGP. C'è una voce di Dovizioso che dice: caspita, noi siamo competitivi, abbiamo investito tanto, ho speso delle ore per portare questa cosa, ci dà un vantaggio, perché cambiare le regole in corso d'opera? E quindi c'è questa diatriba, ali sì, ali no. Tu cosa dici? Ma io dico che bisognerebbe capire se possono essere veramente un danno, cioè una sorta di crash test, vedere, non devono avere uno spessore oltre al quale diventano delle armi, certo. E allora sì, fa parte della ricerca. Io sono affascinato dallo stato dell'arte della tecnologia, e tutto ciò che serve per raggiungere la prestazione è bene che ci sia. Certo, non deve essere una alabarda spaziale, quello no. Esatto, quindi diamo delle regole, delle misure di ingombro, di peso, di consistenza, in modo che non siano lame, ma la tecnologia non deve avere dei freni, è il suo bello, no? Non è una macchina che non si può fermare, questo è il mio pensiero. No, chiaro, bisogna anche premiare la fantasia delle matite in questo caso. Io ho un messaggio che scrive: Valentino Rossi ha tessuto la sua tela per vincere i prossimi 3 mondiali, mandando Lorenzo in Ducati. 3 mondiali mi sembra tantissimissima roba. Però su questa scorta ti posso fare una domanda un po' provocatoria. Sì. Ma alla Yamaha, come cioè metti domani Lorenzo firma con la Ducati, ormai è il segreto di Pulcinella. Certo. Le ragioni possono essere le più varie. Alla Yamaha come gestiranno la stagione? la Yamaha sarà molto difficile, però io penso che il peggio l'abbiano già vissuto, sai, perché l'episodio dell'anno scorso, insomma, quindi alla fine ci sarà un muro che di fatto c'è già, anche se non c'è, ma virtuale c'è, e andranno avanti fino alla fine della stagione, sapendo che c'è un Vignales che lo sostituisce, e, però sul piatto, secondo me, Valentino, sotto questo punto di vista, ha già vinto. Guarda che Yamaha, cioè comunque con Lorenzo, non sono un po' sono arrabbiati per come lui ha gestito l'anno scorso, per come ha aperto la bocca, sì, quando non doveva, quindi Yamaha, il fatto che se ne vada via Lorenzo, certo sono dispiaciuti perché è il pilota più forte e il binomio suo e della moto sono la cosa da battere, ma non sono poi così tanto dispiaciuti, anche perché a livello mediatico purtroppo Jorge funziona poco. Guarda, arriverà un messaggio in questo momento, era prevedibile, Vale porta sì, tanti e di più soldi che Lorenzo Campione. Esattamente, è così. Poi devi sapere che arriverà Vignales, che è uno spagnolo ben voluto dalla Movistar, Yamaha sai che è Movistar, quindi potranno fare tante belle cose con Movistar, che fino adesso non hanno potuto fare, perché comunque Jorge non era lo strumento giusto, mediaticamente non funziona, anzi è controproducente, e quindi ti dico, l'Injarvis e tutta Yamaha non lo diranno mai, ma è non sono lì a piangere nei box, no, di Austin. No, te lo dico, questo proprio in tutta sincerità. Un'ultima cosa invece, sempre a proposito di faide intestine, alla Ducati, sì, invece come gestiranno Iannone e Dovizioso? Questo bisogna dare un premio a Ciabatti, perché lunedì quando l'abbiamo sentito è stato veramente un grande politico e non si è sbilanciato più di tanto, però le sue cose le ha dette, infatti siamo stati ripresi, questo devo dire, c'è stato anche un'ansa e questo mi rende, insomma, è una bella cosa, che come no, riusciamo a essere, come vero? Vuol dire che si lavora bene, tanti, Carlo. Sì, sì. Allora, devono gestire. Allora, Iannone, ragazzi, è così. Io lo dico fuori dai denti: è difficile che imparerà. Lui ha quella testa lì, è istintivo e vuole la sua prima vittoria, il suo primo podio, quindi non ce n'è. Certo, non può replicare, soprattutto col compagno di squadra, ma Iannone con gli altri, secondo me, non si smusterà tanto, non riuscirà a tenere le ali molto strette, e le ali intendo i suoi gomiti, non quelle di carbonio attaccate alla moto, hai capito? Grazie Roberto, ci vediamo lunedì per questo Gran Premio dell'America, che ha mille temi collaterali, al di là del fatto che, insomma, c'è anche quello agonistico, volendo, sono curioso di vedere cosa succederà su quella pista. Torno un attimo agli ascoltatori e poi apriamo un altro capitoletto, quello sul Milan, che ha vissuto pure una settimana non semplice. Bruno, buongiorno. Buongiorno, salve. Sì. Volevo intervenire ancora a proposito del boccia ricevuto in Senato, so che se ne è già parlato fin troppo, e non varrebbe più la pena, solo per ricordare che il boccia con i suoi pretoriani anni fa ha marciato davanti alla questura di Bergamo costringendo l'ispettore della Digos a uscire e l'ha minacciato dicendogli tu non sai quello che fai, te ne pentirai amaramente, oppure pescato da un passante che imbrattava sui muri di Bergamo, Digos infame, ha preso a sberle calci il passante. Ecco, mi piacerebbe andare allo stadio dove a decidere non siano le regole, non ci sia il boccia a deciderle, e che quando esco dallo stadio, come è stato l'ultima partita in cui ho partecipato, io non sono tifoso tarantino, ma ho dovuto aspettare 30 minuti con mio figlio di 10 anni dentro lo stadio, e quando siamo usciti, giustamente, dal punto di vista delle forze dell'ordine, non abbiamo potuto esibire il nostro tifo, ma abbiamo dovuto nascondere tutte le sciarpe e quant'altro, e assetto di guerra fuori dalle forze dell'ordine, dopodiché ovviamente i vecchi tifosi di casa ci aspettano e nei vicoli dove le forze dell'ordine non ci sono ti aggrediscono. Ho visto prendere a sberle una ragazza di 15 anni con suo padre solo perché avanzava fuori un piccolo fazzolettino della squadra avversaria. Sì, queste sono storie non solo di oggi. Io ripeto, andare allo stadio non è un esercizio divertente in molti casi, anzi. Però rimango convinto del fatto che, anche perché gli stadi sono normalmente semivuoti, semideserti, rimango convinto del fatto che in un passato non remotissimo fosse addirittura più pericoloso frequentare quei luoghi. È chiaro che poi rimane in giro questa gente. Vogliamo chiedere a voi, ma veramente con il cuore, di ritornare a dare la possibilità a tutti di prendere questo tamburo benovato, di prendere questo fumogeno, di poter non dividere le curve, semmai se c'è un discorso di sicurezza magari togliere delle persone perché c'è un discorso di sicurezza da affrontare, ma non rovinate la fantasia del tifo, perché il tifoso se litiga con Pruzzo, parlo degli anni, uno lo sa giovedì, non può pensare, lo striscione nasce di fantasia, non può prevedere 15 giorni prima cosa deve dire alla questura, che striscione faccio, che coreografia faccio, non ci sta, è possibile, non snaturate quello che sappiamo fare meglio, perché anche il cane che viene trattato male diventa rabbioso. Il cane che viene trattato male diventa rabbioso. Questo è l'arringa tenuta al Senato della Repubblica Italiana. Roberto, buongiorno. Grazie della convocazione. Grazie a lei. Volevo solo dire delle cose, come si è parlato tutti questi giorni, del Napoli e della Juve, giustamente. Uh-huh. No? E niente, io ho una mia idea. Allora, questa è una domanda. Dopo il Bayern, la Juve era un video, giusto? Grande squadra, la Juve, forte, tutto. Era un video, primo tempo Torino, col Torino 2-0, grande Juve, non c'era niente da dire, niente da dire. Secondo tempo è cambiata la partita. Quel momento lì, secondo me, la Juve poteva vincerla anche in 10 uomini, ecco, però non andare a finire così. Quindi, secondo me, l'aiutino c'è stato. Andiamo a Udinese-Napoli, invece Napoli partita storta, giusto? Meritava di perdere. Higuaín gliene dava 8 di giornate, giusto? Sì. È tutto giusto. Sì, però Napoli Roberto, però l'aiutino aspetti un attimo, ma lei mi dice che il Napoli in questa stagione comunque non ha avuto dei colpi di fortuna da questo punto di vista? Sì, dei colpi di fortuna li hanno tutte le squadre del campionato. Però bisogna... io vedo una cosa, che la Juve, anche nei campionati scorsi, quando aveva il momento che aveva meno forze, per sbaglio, per visto, io non credo che gli arbitri si vendano, per l'amor di Dio, però sbagliano sempre a favore. Ma sbagliano, che esista la sudditanza psicologica nei confronti di grandi squadre, tra cui il Napoli, tra cui la Roma, io credo sia vero. Che ci siano disegni oscuri per far vincere questo o quell'altra, io faccio fatica ad accettarlo, anzi non lo accetto proprio. Franco Ordine, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno a voi. Disegni oscuri? Tu li leggi, li vedi, disegni oscuri su questa stagione? Se sono oscuri, come faccio a vedere? Bravo, bravo, bravo. Te la sei cavata bene, Ciccio, bravo, bravo. No, devo dire francamente che se c'è un campionato nel quale obiettivamente il numero degli svarioni, dei clamorosi errori degli arbitri sono ridottissimi e non hanno di sicuro inciso sul campionato, è questo. Poi, dinanzi all'obiezione che fra Irrati a Udine e Rizzoli nel derby di Torino, sì, quello che ha sbagliato è Rizzoli, questo secondo me non riconoscerlo è obiettivamente non solo, ma va detto anche che a Udine Koulibaly ha rischiato, se ci fosse stato un tra virgolette piano, sì, Koulibaly andava fuori. Sono d'accordo. Questo è secondo me il e poi devo dire una cosa, proprio l'altro giorno parlando con Ondà, gli ho chiesto ma secondo te qual è la squadra che gioca il calcio migliore? E lui mi ha risposto secco, senza nemmeno un attimo di esitazione, il Napoli. Allora io ti dico che quest'anno il Napoli, che ha sicuramente giocato e ha eseguito il calcio più spettacolare, più brillante, ha avuto un clamoroso deficit sul piano A, emotivo, B, nervoso, C, della comunicazione da parte del suo allenatore. Sì, questi, sono d'accordo. Questi tre limiti che sono poi non so se sia dovuta a inesperienza o, certo, o se si, questo lo scopriremo, no, è certo, la prima volta che è lì a quei livelli, certo che è dovuta all'inesperienza di Sarri e anche diciamo complessivamente diciamo degli altri, perché Higuain, la scena isterica di Higuain all'atto dell'espulsione, signori miei, non è caduta dal cielo, cioè non è un evento innaturale, perché Higuain era, tra l'altro, così con i nervi un po' a fior di pelle sull'orlo di una crisi, e si è già visto in altre circostanze, sì, sì. Cioè lui stava, è come quello che sta facendo il Gran Premio di Formula 1, che gira tutte le curve a 300 all'ora, certo. A un certo punto alla 47esima curva a 300 all'ora nella sbarca. Certo, poi dicevamo prima, a questo livello sappiamo perfettamente come se gli avversari vedono che tu sei sull'orlo di una crisi di nervi, non fanno altro che pestarti sui nervi, questo lo sappiamo benissimo. Senti Franco, volevo farti sentire, ma l'avrai già sentito ovviamente, far sentire agli ascoltatori Galliani su Balotelli e magari anche su Mihajlovic. Ma sta bene adesso Mario, quindi poi Mario ha una voglia pazzesca di rimanere al Milan, quindi spero che lo dimostri in campo, perché Mario vuole stare qui e io gli ho detto: caro Mario, per quello che hai fatto fino ad oggi non meriti di stare qui, convincici, visto che ti vogliamo bene, da qui al 21 maggio a fare in modo che tu possa rimanere qua. Ha promesso che lo farà e io mi auguro per il Milan e per lui che lo faccia. Mister Mihajlovic, ci siamo vicini e compatti, intanto l'abbiamo scelto, è qui, ha 2 anni di contratto, quindi siamo vicini, poi i rumors non si riescono a frenare, ma insomma lasciamo tranquillo Senise, lasciamolo lavorare, quindi certamente la squadra con l'allenatore, certamente come tutte le cose bisogna fare dei punti e dei risultati, insomma. Oggi Mihajlovic ha detto: se non vinco la, diciamo, la Coppa Italia, è giusto che cambi l'allenatore perché i risultati non ci sono. Mi dai un tuo commento su queste parole di Galliani? Guarda, il mio commento è il seguente: onore delle armi a questo signore, il quale non ha sicuramente fatto bene dal punto di vista del gioco. Mihajlovic, sì. Mihajlovic sto parlando, sì. Ha sicuramente introdotto, colmato un paio di lacune clamorose rispetto alla gestione passata, cioè disciplina e intensità negli allenamenti. Sul piano della comunicazione devo dire tanto di cappello, perché riconosce che dinanzi a risultati deludenti e negativi lui non può pretendere di rimanere in sella, e devo dire che è raro sentire un allenatore che faccia questo ragionamento e non invece che si aggrappi a 100. Sì, sì, hai ragione, sono d'accordo con te. Grazie Ciccio. Buon lavoro. Ciao, buona giornata. Ciao Franco Ordine, grazie davvero. Noi allora adesso ci fermiamo perché il tempo qui è scaduto, ma oggi, ripeto, stasera abbiamo i supplementari live dal vivo International Radio City. Vi aspettiamo io e Pardo a Milano in Piazza Gaiolenti, spazio Unicredit, per un supplementare live con un sacco di ospiti in carne e ossa e non solo in voce. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Beni in redazione. A dopo, io spero. Signori, alla prossima.